Grazie a tutti per la cortese attenzione, grazie a Cristiano Valli per la regia, perdonateci per la mancanza della sigla, l'appuntamento rimane confermato a domenica prossima, alla medesima ora, e buona giornata a tutti.